strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. Salvaguardiamo il lavoro oggi per difendere il futuro dell'Italia. È questo il messaggio principale del manifesto sull'emergenza Covid-19 di Anfia, l'associazione che raggruppa la componentistica e il mondo produttivo dell'automotive in Italia. Un manifesto che contiene il ringraziamento agli imprenditori della filiera automotive italiana per gli sforzi atti a garantire la continuità produttiva, alle maestranze e agli impiegati delle imprese per il loro lavoro nel rispetto delle misure straordinarie, ai sindacati per la flessibilità dimostrata e infine ovviamente al governo per aver saputo gestire l'emergenza pensando anche alla tenuta dell'economia nazionale. Maserati comunica che l'evento The Way Forward, dedicato al rilancio del brand e originariamente previsto per maggio 2020, è posticipato a settembre, ovviamente in considerazione della situazione contingente. L'appuntamento si terrà a Modena ed inaugurerà la nuova era del marchio. Maserati quindi non si ferma, il tridente ripartirà proprio da questa terra, casa del brand da oltre 80 anni. Maserati e Modena, due realtà inseparabili, caratterizzate dalla medesima passione, dalla fiducia e dalla audacia nel guardare al futuro. Prima dell'emergenza virus era diventato il fenomeno del momento, ora registra perdite nell'ordine del 70-80%, stiamo parlando del noleggio a lungo termine che però cerca di reagire. Nasce infatti NLT Market, il primo comparatore di offerte di noleggio a medio e lungo termine per privati e partite IVA. Il portale raccoglie le principali offerte di società di noleggio, concessionari e broker attivi sul mercato italiano con aggiornamenti quotidiani delle quotazioni. Fornire soluzioni di ricarica personalizzate basate sulle proprie esigenze di guida. Nasce con questo obiettivo la partnership tra il gruppo PSA Italia ed Enel X. Sono tre i piani di ricarica Enel: pacchetto Home per ambito privato, Street per ambito pubblico e Full Recharge, comprensivo di tutti e due, per sfruttare al meglio le potenzialità delle vetture elettriche e ibride del brand Peugeot, Citroën, DS e Opel. L'accordo prevede inoltre l'installazione di 800 punti di ricarica presso la rete dei dealer di PSA Italia, la prima a livello europeo ad essere interamente elettrificata. Ford Puma è l'ibrida più venduta in Italia nel primo bimestre del 2020, un crossover mild hybrid, quello dell'ovale blu, che conferma il più generale interesse degli italiani per le ibride. Ne parleremo nella seconda parte di questa trasmissione di oggi, con un'intervista esclusiva ovviamente al direttore delle relazioni esterne di Ford Italia. E ritorniamo a parlare di Covid-19 perché, come vi avevo anche anticipato nel corso del lancio di questa trasmissione, cerchiamo un po' di fare il punto della situazione per quanti debbono spostarsi in automobile, cerchiamo di capire quali sono le regole da seguire per viaggiare in sicurezza in questo momento. Innanzitutto dobbiamo dire che è online il nuovo modello di autodichiarazione in caso di spostamenti, che a differenza di quello vecchio e di quelli ancora precedenti contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto coronavirus, e cioè non deve essere sottoposto alla misura di quarantena né essere positivo al Covid-19. Per queste due categorie naturalmente c'è l'obbligo di non lasciare il domicilio neppure in auto. E poi ci sono quelli che possono spostarsi in maniera limitata in automobile, quelli che devono farlo per esigenze di lavoro o per recarsi a fare la spesa o ancora per assistere dei parenti che hanno bisogno appunto di essere in qualche modo supportati, tutte le casistiche previste dai provvedimenti governativi. E allora ci sono delle regole anche per loro, in parte scritte, in parte dettate da come dire, un semplice buonsenso. Di tutto questo parliamo oggi in compagnia dell'ingegnere Enrico Pagliari, che è il coordinatore dell'area tecnica di ACI. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, ribadiamo, ci si può spostare in auto, come per tutti gli altri spostamenti, solo per comprovati e autocertificati motivi di lavoro, salute o di stretta necessità. Detto ciò, ci sono persone appunto che devono muoversi in auto. Cominciamo con il cercare di capire come possono farlo. E ad esempio, quante persone possono viaggiare a bordo di un'auto, Pagliari? Sicuramente devono avere il modulo di autorizzazione, l'autodichiarazione che lei spiegava prima. Meglio se ci si sposta in una persona soltanto, perché se si al massimo si può essere in due, ma entrambi ovviamente devono avere la motivazione per spostarsi. E in caso di due persone vale in ogni caso l'accortezza di stare a non più, almeno un metro di distanza l'uno dall'altro, quindi è automatico che nei veicoli è opportuno che ci sia il conducente e l'altra persona si metta nel sedile posteriore in modo diametralmente opposto. Non si può andare in tre persone, perché questo è specificato dal decreto, in questo caso si incorre in una sanzione. Questi accorgimenti che abbiamo detto decadono se ci si sposta tra familiari, quindi i familiari possono anche essere tre, però ribadisco, a monte i tre devono avere giustificati motivi per spostarsi, perché altrimenti non è che si va a fare una gita in famiglia. Certo, ovviamente. Tra le attività che non sono state sospese dal decreto dell'11 marzo ci sono quelle di carrozziere e di meccanico, in realtà ci sarebbero anche quelle di gommista, fra un po' cercheremo di capire che cosa è successo in questo caso, ma è possibile raggiungerli e quando? Allora, il decreto è esplicito, a meno di problemi proprio di logistica, nel senso che il tuo comune di residenza non ha, io aggiungerei anche il distributore di benzina, perché si può andare a fare rifornimento, quindi benzinai, carrozzieri, meccanici, si possono raggiungere però nel comune di residenza, quindi non uscendo dal comune di residenza, qualora ci siano problemi, si può andare da queste persone, rispettando però sempre le solite accortezze, in questo caso anche da parte del distributore di benzina, del carrozziere, del meccanico, devono essere adottate tutte quelle accortezze di pulizia, di sterilizzazione, uso di guanti, eccetera, eccetera, richieste dal decreto sul coronavirus. Certo, c'è poi la categoria dei gommisti, qua c'è stato un piccolo giallo, ascoltate la scheda. Nell'Italia bloccata dal coronavirus, anche i gommisti, come i meccanici e i carrozzieri, continuano a lavorare. Lo hanno confermato in una nota congiunta Federpneus e Assogomma. Un chiarimento, quello delle associazioni del settore pneumatici, assolutamente necessario. L'attività del gommista, infatti, non era stata esplicitamente citata dal decreto dell'11 marzo sulle misure urgenti anti-Covid-19 tra le attività non soggette a sospensione. Dopo i dubbi espressi dagli attori del comparto, le associazioni si sono attivate presso i ministeri competenti e hanno colmato la piccola lacuna legislativa. L'articolo 1 del decreto, secondo Federpneus e Assogomma, chiarendo che le attività professionali sono soggette al rispetto di alcune raccomandazioni che devono essere osservate, fa intendere che le attività professionali non sono sospese. La parte preponderante di attività che effettua il gommista è di questa natura e quindi può essere esercitata. La componente commerciale poi, se asservita a quella professionale, è da considerarsi ammessa. Bene, quindi giallo praticamente risolto, credo che anche per i gommisti valgano le stesse regole, Pagliari, che abbiamo appena citato per i carrozzieri e per i meccanici. C'è un tema che è quello della revisione, questo tema è stato disciplinato in particolare dal DL Cura Italia proprio pochi giorni fa, che ha stabilito per esempio alcune novità importanti. Diciamo in scadenza dopo il 31 gennaio, o se preferite a partire dal 1 febbraio, su sono tutte prorogate al 31 ottobre, quindi si può circolare fino al 31 ottobre anche in presenza, diciamo, di documenti di scadenza. Questo vale per revisione, collaudi, ma anche per quei certificati CQC che hanno gli autisti professionisti. C'è poi il tema delle patenti, anche su questo è intervenuto in particolare il Ministero dei Trasporti. Ascoltiamo questa scheda. Mentre gommisti, meccanici e carrozzieri continuano la loro attività, autoscuole, agenzie di pratiche auto e uffici della motorizzazione civile restano chiusi e non è perciò possibile in questo momento di emergenza né prendere né rinnovare la patente. Il Ministero dei Trasporti ha dunque prorogato i termini per sostenere le prove dell'esame per la licenza di guida. Gli esami di teoria potranno svolgersi oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un'ulteriore richiesta entro il 30 giugno 2020. Allo stesso modo, le autorizzazioni a esercitarsi alla guida, foglio rosa, con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020, sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Chi sarà autorizzato per lavoro, per motivi di salute o per altre esigenze comprovate, anche qualora la propria patente fosse appena scaduta o scada tra marzo e aprile, avrà la facoltà di mettersi al volante senza rischiare sanzioni. Bene, quindi anche per chi ha la patente in scadenza il problema è per il momento ovviamente risolto. Cosa succede invece a chi ha ordinato un'auto nuova e magari attende la consegna proprio in questi giorni? Diciamo, può comunque ritirare la sua auto con tutte le accortezze del caso, però c'è un problema di documenti, ecco. Proprio qui come Automobile Club entriamo in causa, perché i nostri uffici fanno anche questo tipo di pratiche, quelle cosiddette di immatricolazione di veicoli nuovi o di passaggi di proprietà, e ovviamente c'è un certo impasse in questo periodo. Come Automobile Club abbiamo messo a disposizione un numero verde 818 34 34 dove si può esporre il proprio problema e gli verrà data una soluzione sia dal punto di vista territoriale sia dal punto di vista proprio delle operazioni che occorre fare. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite, l'ingegnere Enrico Pagliari, coordinatore dell'area tecnica ACI. Nella seconda parte ci occuperemo in particolare di quello che stanno facendo le case costruttrici. Molte di loro hanno deciso di sospendere le attività in Europa. Ne parleremo oggi in compagnia dei nostri ospiti. Tutto questo a Strade e Motori fra pochi minuti, restate con noi. Era inevitabile, l'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta, quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa, per significare io appartengo a loro. Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente spazio, ci occupiamo adesso invece di quello che succede nel mondo delle case costruttrici. Molte di queste hanno deciso in queste ultime ore di sospendere le attività negli stabilimenti in Europa, Volkswagen, Mercedes, Ford, e noi di questo parliamo proprio oggi in compagnia del direttore delle relazioni esterne di Ford Italia, Marco Alussaffi. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi. Allora, dicevamo, anche Ford a partire da ieri ha deciso di sospendere le attività, tutto questo in un momento sicuramente non facile per il mondo dell'automotive. No, direi un momento estremamente complicato che non ha precedenti, direi, neanche nella crisi del 2008 o di quella delle Torri Gemelle. Ford forse perché è un'azienda profondamente familiare, pur essendo una multinazionale globale ovviamente, ha anticipato i tempi, per esempio sullo smart working, l'attenzione alla salute del personale e delle persone che lavorano per Ford è assoluta da parte della famiglia in primo luogo e tutto il management globale. Quindi già da 10 giorni siamo tutti obbligatoriamente in smart working, vanno in ufficio solo poche funzioni che realmente non possono fare il lavoro da casa, e da ieri abbiamo anche fermato le fabbriche europee perché chiaramente quelli sono luoghi dove purtroppo il contagio, per tutte le precauzioni che si possono prendere, è più facile. E noi avevamo già avuto 3 casi nella fabbrica spagnola, 1 nella fabbrica tedesca, e quindi non era il caso di continuare, certo, a rischiare. Certo, soprattutto per i dipendenti e i lavoratori, come giustamente ha sottolineato lei, una sospensione temporanea che ovviamente durerà per un numero di giorni o di settimane a seconda della situazione di pandemia e delle varie restrizioni imposte dai singoli paesi, e noi seguiremo con grande attenzione anche l'evoluzione di questa situazione. Invece torniamo proprio ai prodotti, torniamo proprio ai veicoli. In questo senso invece Ford deve festeggiare, perché nel primo bimestre del mercato italiano è stata con la Ford Puma è stata la vettura ibrida più venduta in Italia, quindi un successo che in qualche modo testimonia anche l'interesse del nostro paese verso questo tipo di trazione. Senz'altro è un trend che è sicuramente in forte crescita nel nostro paese. Chiaramente avere prodotti che coniugavano la bellezza estetica, perché la Puma è anche una bella macchina, con delle soluzioni tecnologiche che fossero non solo al passo coi tempi ma anche, come dire, accessibili a molti, questo sicuramente si era rivelato vincente nei primi 2 mesi. Ford ha scelto una strada che è, diciamo, molto in linea col suo DNA, che è quello di rendere le tecnologie disponibili al maggior numero di persone possibili, quindi un'elettrificazione che è ineluttabile ma che deve essere graduale e deve essere soprattutto modulata in funzione delle esigenze del cliente. Non tutti possono gestire o anche accedere, soprattutto con il prezzo, a una vettura completamente elettrica, ma questo non vuol dire che non si possa mettere un piede nel mondo elettrificato con una mild hybrid o con una full hybrid o con una plug-in hybrid. Quindi l'offerta di Ford quest'anno prevede, e speriamo che possa andare avanti come avevamo previsto, il lancio di prodotti, 14 prodotti elettrificati, sia mild hybrid che full hybrid che plug-in hybrid, proprio per consentire a chiunque di fare le proprie valutazioni e di entrare ognuno a modo suo nel mondo dell'elettrico. Certo, entriamo un po' nel dettaglio di questa Ford Puma, quali sono le sue caratteristiche tecniche? La Ford Puma è intanto una vettura che è stata pensata per rispondere a quello che sono oggi le richieste dei consumatori, quindi sicuramente i consumatori vogliono vetture crossover o ispirate ai SUV, e la Puma questo è, quindi con la sua posizione di guida rialzata, con tutte quelle caratteristiche che oggi caratterizzano questo genere di vetture. In più a questo è stato aggiunto una motorizzazione, come dicevamo, mild hybrid, che consente di ottimizzare consumi ed emissioni ed entrare nel mondo dell'elettrico. Inoltre i nostri ingegneri si sono anche, come dire, sbizzarriti giocando sull'utilizzo di un pianale molto versatile per trovare anche delle soluzioni, come dire, curiose ma anche utili. E quindi questa è una vettura che ha per esempio una soluzione nel bagagliaio che ne fa sicuramente una leader in capacità di carico, perché i nostri ingegneri hanno ricavato un vano aggiuntivo di 80 litri sotto quello che normalmente è il pianale di carico. Quindi una vettura intelligente, devo dire, bella, intelligente, che è sicuramente piaciuta subito sia agli uomini che alle donne. e che è stata apprezzata particolarmente dagli italiani, tanto che è diventata leader di vendite fra le ibride nel primo bimestre del 2020. Sì. Siamo in chiusura, Saffi, ritorniamo al mercato, che è quello che più preoccupa un po' anche chi si occupa di questo settore. Sono stati pubblicati pochi giorni fa, poche ore fa in realtà, i dati relativi al mese di febbraio, un'ulteriore flessione per il mercato dell'auto in Europa, -7%, che segue il -7% di gennaio. Ovviamente ci aspettiamo il vero e proprio bagno di sangue di marzo. Quali sono le sue aspettative rispetto a questo intero anno 2020? Questo mercato si riprenderà secondo lei? Guardi, è molto, molto complesso rispondere a questa domanda oggi, perché se guardiamo i numeri di questi giorni sono drammatici. Come dicevo, nulla a che vedere con la crisi del 2008 o con quella delle Torri Gemelle. Questi giorni abbiamo avuto per la prima volta 0 immatricolazioni in un giorno, quindi il mercato è fermo, immobile, ma per un motivo molto semplice: le concessioni sono chiuse, giustamente, e si limitano a fare servizio di assistenza. Dire quale sarà la previsione di fine anno oggi è veramente complicato, non si rischia di fare delle previsioni che sono o troppo pessimistiche o ingiustificatamente ottimisti, quindi direi è un momento complicato, dobbiamo solamente aspettare e vedere. Oggi i numeri sono pari a zero, proprio lo zero vero. Certo, bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Marco Alussaffi, direttore delle relazioni esterne di Ford Italia, che ci ha dato anche questo dato drammatico. In settimana abbiamo raggiunto, credo per la prima volta nella storia davvero, lo zero immatricolazioni in un giorno. È una novità assoluta per il mercato. Ovviamente seguiremo con grande attenzione questa evoluzione così drammatica anche per il settore e per tutti i suoi addetti, perché non lo dimentichiamo che questo è un settore che dà lavoro davvero a centinaia di migliaia di persone. Termina qui questo spazio di Strade e Motori, grazie a tutti, ci risentiamo per il prossimo appuntamento sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.